Lo sai perché? Sì, perché ho visto un suo meraviglioso lavoro e in coppia con, fra l'altro, il cui presente è Stefano Stagni, che in questo momento sta suonando il basso alle sue spalle, perché lui è uno e trino, uno è artista visivo, due è bassista, e entrambi li ho visti, manca solo il fotografo, e poi ha fatto l'unplane. Effettivamente bisogna ricordarsi di fare delle foto per il blog. Ma senti una cosa, se il fotografo sta facendo il basso, come fa a fare le foto? Le farò io. Le fai tu, ma anche tu sei polifunzionale. Sì. Ah, Pasquini, quanto mi mancherai. Perché ti mancherò? Perché mi sei già mancato fin troppo fin qua. Qualcuno ti ha detto che non vengo più? Chi te l'ha detto? No, non lo so. Vuoi fare un annuncio? No, dai, teniamolo segreto. Io non vengo più. Ecco, la musica di sottofondo. Però, possiamo applaudirli. Yeah! Applauditevi anche da soli, che così sembriamo di più. Questi sono bravi. E come facciamo ad abbassarvi? 333-180-94-94 per mandare gli sms con gli applausi per il nostro gruppo, le tre oche morte, che però in inglese forse non funziona. Non ce la posso fare. Stefano, come va? Ma aspetta. Ho appena ascoltato Afternoon Tea. Scritto da Ray Davis, non so altro. Ok. È una di quelle che si riesce meglio. E questa era la voce di Stefano Stagni. Esatto. Poi potremmo avere la voce di Luca Elwood Hortensi. Io pensavo che si chiamasse Elwood Blushing. Blushing, siamo qua. Che è siamo questo qua? Lui è. Ma c'ha l'accento straniero? C'ha l'accento straniero. Ma lo sentiamo? Viene da San Donino. Bolognina. E poi abbiamo Gianni Silvestri, sax, o anche altrimenti detto il boss, o anche altrimenti detto il maestro. The master. Pardon. Over the top. È l'unico che ha studiato musica. È il vero musicista del trio. Parla anche. Ma come nasce questo trio? mettiamo un po', no? Perché dopo riparte col sassofono un disastro. Per cui quando parli, parla alto. E che cosa facciamo in questa trasmissione, in questa puntata? Io soffro. Tu soffri, soffro. E io sembri Juliette Greco. Per la gioia di vederti qui in carne e ossa, mi fa soffrire. Ah, hai capito. Tanto. Però effettivamente manca la musica di sottofondo. Ma ci sarebbe anche la cartelletta, però sì. Cioè, non c'entra densità, la pienezza. Infatti. Tu lascia un basso tu continua a suonare il basso anche quando... Fatevi venire i calli alle dittine delle corde. Mentre noi parliamo, senti che bello già così, no? Okay. Noi parliamo. Va bene. E loro fanno la musica di sottofondo. Ma Fedra, allora cosa succederà a Coxo Spaziale quando il tuo co-conduttore se ne andrà? Ci sto provando, io confido che il mio co-conduttore... Non riesca a star senza. Ho capito. E quindi appena gli sia possibile risistemare qualcosa. Al momento io sto cercando co-conduttori mensili. Ah sì? Sì. Ok. E il programma prenderà un altro nome, che sarà Cercasi W disperatamente. No, non provare nemmeno. Cox, cercasi Cox W disperatamente. Cercasi Cox spazialmente. Beh, non lo so, comunque ho già qualcuno che è interessato, e questo potrebbe essere un modo per... Ma è interessato a te o è interessato alla trasmissione? No, alla trasmissione. È Natale? È Natale. È Natale? È Natale? Ma che carina! È carinissima questa... This is Christmas. This is Christmas. È una domanda. Bene. Come stai, Elena? Ti stai divertendo? Sì, moltissimo. Come ti senti ad essere qui presente nell'ultima puntata ufficiale con la co-conduzione di W Pasquini? È un onore. Per me è una sofferenza. Sopraffatta dal sax soprano del nostro. È un sax soprano, non lo so. È un contralto, mi dice. Sono bravi, eh? Sono bravi. Lo so, ci voleva. Come si chiama? La sordina. Non esistono le sordine per i sax, no? Ah, tra l'altro. Allora suona forte, chi se ne frega, dai. Tra l'altro, tutti e tre non mi sentono perché non hanno le cuffie. Ah, certo. Ah, là, là. Nessuno dei tre ha le cuffie. Hai ragione. Non funziona così. Eh? Qualcuno si mette le cuffie. No, ma va bene così. Loro devono continuare a suonare come se fossimo a Coxo Spaziale. Va bene, allora tu cerca di porre. Se io avessi questioni nei loro confronti, tu cerca di porgergliele cortesia. Perfetto. Facciamo giusto, squadra. No, perché dai. Effettivamente quando io parlo da qua. Loro ti sentono. Loro ti leggono il labiale, io ho anche il papardone davanti. Però loro non sentono tipo questo, no? No, questa cosa, se uno che dice fate. No, uno che dice fatelo. Fate cagare. Ecco, uno che dice così e loro non lo sentono. Beh, diciamo che questi tuoi francesismi probabilmente non mi mancheranno. Non ti mancheranno, no. Ma penso che non mancheranno neanche al nostro direttore. molto bene. E dunque, come va senza di me, Fedra? Senza di te, insomma, nel puntate sono più noiose. No, io l'ultima puntata, tra l'altro, non ho potuto neanche sentirla perché non c'ero, ero in treno e... Si sono fermati. Allora, rimettiti subito... No, non lo so, posso fare qualcosa. E dovete il basso deve continuare sempre, non puoi fermarti mai. Neanche per girare il foglio. Esatto, neanche per andare in bagno o per girare il foglio. Girali tutti adesso. Comunque, no, volevo anche dirvi che, visto che voi sentite solo me perché non avete le cuffie, volevo anche dirvi che quando c'è una canzone seria ci fermiamo e l'ascoltiamo seriamente. Volete, ecco, ma il tempo ascoltato si titolava Dolores ed è stata registrata anche da Frank Sinatra e da Tommy Dorsey Band nel... Ma se uno si stesse per sposare e volesse affittarvi, siete affittabili per la moglie? Sì, l'hanno detto in coro, renditi conto. Bellissimi. Beh, voglio dire, Pasquini, affittare i Dead Duck Trio non sarebbe per il matrimonio, soprattutto per il matrimonio di Elena Ameskin e adesso poi non ho capito con chi si sposa, ma bene. Ma era un'informazione che era lecito trasmettere? No, in realtà no, se tra l'altro un'informazione inventata. Porgile il microfono che altrimenti non si sente. Per il contraddittorio. No, era un'informazione inesistente, è così. Completamente inventata. Sta così facendo, siccome è l'ultima puntata ufficiale, sta facendo una sorta di repertorio di tutte le amenità pasquinesche. Tutto il peggio. ma no, dai, lei. No, allora. Si è appena laureata, non posso toccarle il culo, obiettivamente. Non potevi comunque, Pasquini, te lo ricordo, te lo rammento. Questo è uno dei motivi per cui sei radiato anche dal cazzo, esatto, se permetti. Sono stato radiato dall'ordine dei radiogiornali. Per aver detto che il Papa era incinto. No. Effettivamente il Papadonna ci vorrebbe. Però io prima che loro cominciassero da piano bar, io volevo chiedere loro di andare con il brano, perché siamo nei tempi radiofonici, adesso ci vale il brano. E questo si chiama, questa la so, si chiama Besame Mucho. Allora io alzo il volume, vi abbasso il vostro. Fai bene? Così, tanto non è che ci sentono lo stesso. Baciami così, senza paura. Tanto ti sento io. 4 canzone. Però il basso sappiate che deve continuare. Il basso deve continuare. Sì, un pochino così. Un pochino. Stefano Pasco, sei passato al telefono, vero? No, Elena, tu tieniti il microfono. Sì, non ho capito, posso andare a casa allora intanto. Provo ad andare nel corridoio, così comincio ad abituarmi dalla prossima volta, perché no, comunque... ho un po' paura di andare nel corridoio, perché c'è gente che mi guarda un po' male. No, veramente? No, il direttore è andato via. Ah, sì? Sì, puoi andare, sei libero. Non posso andare. Dai che c'è Claudio che ci ascolta. Ah, è vero, cavoli, Era contentissimo di avere un live. E, va bene, allora quindi continuiamo così. E Elena, come va? Cosa mi racconti di bello? È ancora. Io sono venuta all'inaugurazione della mostra della doppia. No, come si chiama? Doppia personale? Una doppia personale. Parla il curatore dal telefono, esatto, giustamente. Ah, oh, io non posso non intromettermi. Che è ancora allestita allo studio Cloud4? Sì, fino al 15 novembre. E ci sarà un finissage? Sì. Dai, facciamolo. E questo progetto nasce durante la primavera estate, viene lanciata come proposta da questo curatore pazzo, il cui nome di mezzo si comincia con la W. Esatto. Esatto, al telefono, giustamente. Che chissà come, forse con un po' un esperimento dadaista di quello di mettere la forbice con la macchina da cucire, con l'ombrello, in realtà mette Elena Amersky insieme a Stefano Stagni a realizzare un progetto. Qualcuno metta le cuffie però anche a Stefano Bassista Stagni. Mettetegli le cuffie così ascolta e parla. Innesti. Ah sì, si sente? Si sente. Innesti. Ecco, sì, Innesti era il nome della... E c'entravano un sacco di... Innesti. E c'entravano un sacco di quella parte delle cicale che veniva... come si chiama? Mettili il microfono davanti. Esu. Bene, bene. Dai. Microfono davanti. Si chiama Esuvia. Ok, ed è quella parte di... come la descriviamo? È la pelle che perde la cicala. E quando praticamente partiamo dall'inizio, la cicala è una larvetta, nasce larvetta sottoterra. Ma è vero che resta in incubazione anni? Sì, Stefano diceva. Stefano, quello là che suona il basso da dietro. Eh? Vabbè, allora, scusa. E io da qui dico, confermo che tutto quello che è scritto su Wikipedia è assolutamente vero, perché si cita la fonte. E intanto Elena se la ride di gusto. Esuvie. Cosa bevevano, Stefano? Cosa bevevano? Il ciceone. Che cos'è? Era... una ricetta folle che bevevano tipo i romani. Chi è che beveva? Ah, niente di meno. E si bevevano il liquido delle cicale? No, era vino con farina. Ma e la cicala cosa c'entra? La sua larvizzazione? Era scritto su Wikipedia. Quindi, ok, va bene. Bellino questo fatto. Le cornuta la conosce anche Giffo, che saluto perché ci ha appena detto, mandato un messaggio cattivo. Ma a proposito, lì c'è il telefonino della radio, 333-180-94-94, anche se in realtà... Funziona, sì, gli sms 333-180-94-94, bisogna vedere se funziona. Se va o se non va, e più che altro se io lo prendo in mano e leggo gli sms che arrivano. No, poi infatti quando riparte il nostro jukebox umano e quindi poco prima che partano i 2 minuti di Lolli e la pubblicità delle 7:30, io mi avvicinerò e porrò le mani sul telefono che porta il numero 333-180-94-94 e vedremo quali arcani nasconderà. Quindi il nostro jukebox è stato chiamato in causa e sta preparando un altro pezzone. Da quanto? 3 minuti? 4? Allora dovete aspettare. Il pezzo tra 2 minuti mi fate il pezzo da 2 minuti. Il passo deve continuare sempre. Vai, così, perfetto. Ma dai, ma se fai così gli altri sono invidiosi. Guarda che sono lì, che sullo sgabelletto, che guardano il basso che continua con la lacrimuccia. Poi... Insomma, mi hai coxato il boss, il maestro Gianni Silvestri. Esuvie. Se lo dici tu, cara. Quanto mi mancherà? Quanto mi mancherà? No, e poi manca anche... Basta, ti chiudo. Manca tango. Manca pango. Perché non abbiamo portato tango? Oggi ci stava in trasmissione. Chi era tango? Tango è il cane di Stefano Stagni. Ah, ok. Che è sempre stato presente nei nostri incontri perché vive in studio, allo studio Claude. Ah, ma io non l'ho mai visto. È il giorno dell'inaugurazione, Stefano ha deciso di lasciarla a casa. Si nasconde. Ah, quindi vive sempre nello studio e quando c'è l'inaugurazione viene... Bravo, bravo, che ci piace questa cosa, ci piace. No, no, bisogna microfonare perché non si sente. No, dicevo che l'abbiamo dovuto lasciare perché si è molto immedesimato nella parte. Quando ha visto Elena che disponeva le foglie sul tavolo per quello che era appunto l'esposizione, non era molto d'accordo sulla disposizione, quindi ne ha preso un paio e se le portate di là nella sua cuccia e cercava di elaborarsele pure lui. Allora abbiamo pensato che era un quarto incomodo, che lo teniamo per la prossima mostra. E infatti quando sarà un trio, una personale a tre con vabbè, insomma. E ma ragazzi, visto che abbiamo ancora un minuto mentre il bassista continua, no dai, ne riprendiamo dopo il discorso. Che brano ci fate prima dei due minuti di Lolli? Abbiamo in previsione un bellissimo brano che si microfono Moonglow. Eh? Moonglow. Munglo? Munglo, Munglo, Munglo, Munglo, Munglo. È meraviglioso. Che è praticamente la luna, l'alone di luna, praticamente sarebbe quella luna un pochettino appannata, oh. Che è conosciuto come Munglo and Love, del 33. E dopo la pubblicità, sì, e dopo sì. Moonglobe. E i due minuti di Glow. Musiche di Will Hudson e Irwin Millis. E dopo di questo. Ah, tanto per cambiare. Dopo loro, fatti dagli altri, e Lolli, e quello che succederà alle 7:30, ritorniamo con i nostri argomenti che principali, che sono come è nata, si è articolata e su quale base programmatica avete distribuito il lavoro per aggiungere a questa fine provvisoria della MOST che è ancora fruibile allo spazio studio Cloud 4, e anche le origini di questo trio, mi sembra giusto. Quindi adesso vi alzo il volume a palla. Andiamo con Moonglow. Non ho capito. Bravo. Pasquini, si sente se parli, eh?

questo era Coxo Spaziale. Ma che puntata siamo arrivati? Ma, non lo 114esima. So. 114esima. Mancano 5 secondi, 4 battute. 3 esuvie. Sei proprio uno spacca atmosfere, Pasqua. Esatto. Eh no, sì, anche perché Elena si sta addormentando. Non ho capito. Ancora. Bravi. Eh no, non avevo tempo di scrivere qualcosa di nuovo. Ti stai addormentando. E quindi Stefano Stagni, artista visivo, bassista, fotografo e autoapplaudente. No. Luca Elwood Ortensi, chitarrista, adrenalinico e autoapplaudente. Gianni Silvestri, sax, il boss, il master, non auto applaudente. Eh no, lui è un professionista serio, per cui giustamente non si applaude, non come fanno tutti i curatori. Elena Amersky, ho detto giusto stavolta, ogni volta è come cadere da un bar. Io sbaglio sempre, dico Amersky. Buttarsi senza rete col trapezio. E Stefano Stagni. Sì, che è quello là. E W. Pasquini in questo progetto di curatela relazionale, la possiamo chiamare così? Ma cioè, guarda, tipo appuntamenti al buio artistici, me ne fai fare uno anche a me? Sì. Dai, ti prego. Sì. No, la risposta è sì, ufficialmente. Ah, bene. No, guarda, questa è una delle cose più semplici per un curatore. Perché ma anche più stimolante per gli artisti, credo. Bah, forse anche sì, però non lo so, adesso poi rispondono loro. No, però volevo dire che è semplicissimo. Cioè, tu prendi due artisti che ti piacciono, li metti insieme, gli dici fate una roba insieme, quando accettano tu non fai più niente, li guardi e fingi di starti per arrabbiare. E così è nato Innesti. E così è nato Innesti, che è questa collaborazione, appunto, che hanno fatto tutta la mostra appositamente. Che infatti è stato stati talmente autodidatti che io, quando sono arrivata all'inaugurazione, ti ho chiesto: ma spiegami un po', perché questo allestimento mi sa che c'ha una forte struttura sottostante, che parla di cose dense. Esatto, tu io mi hai subito mandato. Non ho capito. Effettivamente, no. Sì, un po' c'era anche quello, però mi hai subito cacciato a cercare i due artisti. Esatto. E io ho trovato Stefano Stagni. Che ti ha parlato dei. Mi ha fatto fare un giro da tutto a partire dalle sindoni. Ah, ok. E dalle informazioni sulle cicale, ecco, da Wikipedia. Ciceoni. E ciceoni. Io ho risparmiato il cicione, che questa è. Sì, me l'hai solo accennato, effettivamente. Ma cos'è questo cicione? Io non ho capito niente. Era la bevanda che utilizzavano appunto quando i sacerdoti facevano questi riti per entrare nel mood della cicala. Insomma, cicala, io deve bere il cicione. Sacerdote. Elena, quando ti hanno spalmato di liquido, com'è che si chiama? Di sviluppo. Ti sei sentita un po' tipo la cicala sommersa dal cicione o mi sbaglio? Anche il pane di segale tricornuto, no? Ah, esatto. Soprattutto quando ti spingevo la maschera sulla faccia. Sì, esatto, che non riuscivo più a respirare. Cosa? Scusa? Diciamo che era molto fissata, ma non perché noi eravamo dei guardoni, era fissata perché giustamente col fissato andavamo a fermare l'immagine. Va bene, no, perché ok. Quello che succede in questa mostra. Io ho capito che voi volete spronare la curiosità e portare le persone a vedere direttamente, però no. Qualche appiglio. Esatto, no, infatti te lo stavo per spiegare. Mm. Quello che succede in questa mostra è che ci sono due sindoni che sembrano. Cioè, non al si neon. Capisce bene. No, esatto, sì. Sono illuminate con il neon che si chiama. Lampada di Wood o luce nera. Lampada di Elwood oppure. ok, e allora cosa succede? Che queste sono fotografie, cioè queste due sindoni di fatto sono fotografie. Ma sono fotografie che vengono ad impressionare quella tela a partire da un particolare negativo. Un particolare negativo? Non ho capito. Di una Polaroid. Di una Polaroid? No, non era della Polaroid. Sì, sì. Che riprende quella parola strana che c'entra con le cicali. Le esuvie. Esatto. È una foto praticamente di un tronco con le esuvie. Sì, stiamo parlando del tuo lavoro d'artista. È la foto che ha fatto Stefano Stagni. Cosa? Stefano ha detto che lo voglio sempre mettere in mezzo. E è una foto di un tronco con le esuvie attaccate sopra, perché queste pelli praticamente le cicale se le tolgono attaccandole ai tronchi. Sì, ne ho viste anche io la prima volta che le ho notate, mi hanno fatto una bella impressione. Proprio. E io non le avevo mai viste invece, è stato Stagni che. Io proprio non sapevo neanche cosa fosse. Neanche io le avevo mai viste, ma tu dove le hai viste, Fedra? Perché io le ho viste solo in Bolognina. Io in Puglia. Ah. allora esistono davvero. Esistono a chilometro zero. No, no, perché per un attimo ho pensato che Stefano le avesse costruite con la stampante con 3D. Wow, effettivamente. Effettivamente. Ma queste genialate qua, Pasquini, ma chi potrà mai tirarle fuori? Ma il biondo. Cosa è successo? Cristiano Biondo, presente, l'hai avuto ospite un paio ma di volte. Ma non viene. Ah, non viene. Non può venire. Ah, è vero, perché lui insegna di sera a quest'ora. Ma infatti il problema di base è l'orario di questo coxo spaziale. No, veramente io ho delle persone che lavorano orari normali e che quindi o comunque che non lavorano o comunque che fanno altri lavori. Oppure la Ciccioni. Però appunto, torniamo un attimo, riprendiamo, non mi far fare la Pasquini di turno. Infatti, anche perché se sei troppo autoreferenziale, lo sai cosa succede. Ah, cavoli. Coxi duri. Senti, ma facciamo un altro brano? Siete pronti per fare? Noi proporremo in anteprima questo It's Only a Paper Moon, un brano scritto appositamente da Harold Arlen per Broadway, fu un insuccesso clamoroso. Ella Fitzgerald, Nat King Cole Trio la ripresero a mano, diventò invece un best seller della Madonna. Ma... e da qui venne utilizzato per il film Paper Moon con ma perché? E oltre questo anche in un episodio di Star Trek. Quindi noi dedichiamo questo Paper Moon a tutti gli Star Trek che stanno ascoltando. Però preparatevi che no, poi... invece sai a chi lo dobbiamo dedicare? Anzi, mi sono dimenticatissimo. A Margherita Pepe, il suo compleanno. Auguri! Aspetta, che dobbiamo andare... Voi intanto fatelo partire. Sì, che... e preparatevi perché poi vi chiedo come nascete voi tre insieme. Assolutamente. E perché ci state riproponendo tutti questi bei brani con tanto di citazione? E di... Ok, bene, mi taccio. Sono Margherita Pepe e sto ascoltando Coxo Spaziale. Coxo Pasquini. Fai sentire il tutù che ti piace tanto, scusa. Se vuoi te. Quanta nostalgia. No, io ho ti una ricordi domanda, le prime io telefoniche, Pasqu? Un'altra domanda per il nostro bassista. No, scusa, l'ultima volta che ti ho visto, mi hai abbassato? No. L'ultima volta che ti ho visto avevi un basso come si deve, un basso lungo. Un basso classico, come si chiama quello di legno grande? Un contrabbasso, ecco, quello degli Aristogatti. È già rimpatriato, è già in Canada, Montreal. Perché? Beh, perché fra un po' lo raggiungerò anch'io. Fra qualche Senti, ma io invece fra un annetto vi raggiungo pure a Montreal. Non sto capendo niente neanche io. No, perché non vendete viste cuffie, porca vacca. Ecco perché. Ah, no, perché stava. No, digli che tra un po' lo raggiungo anch'io. L'aspettiamo, sì, assolutamente. Abbiamo già scaldato l'ambiente. Bene, bene, bene. Porta tango, però. Assolutamente. La tango ci sarà già insieme. Tango sarà dura perché la zampa corta, il ghiaccio è alto. La zampa corta, ghiaccio alto. E la milonga va di brutto, anzi, abbiamo degli amici molto. Ma va anche la Contat, che io vado meglio. Assolutamente. Sai che cos'è? No, perché non E quindi tu suonerai il contrabbasso. Sentimi qua, Stagni. Sì. Tu suonerai il contrabbasso nei tunnel riscaldati d'inverno, mentre io e gli amichetti balleremo improvvisando. Mi fa piacere. Ti piace? Questo mi dà già dell'entusiasmo. Del calore da tunnel riscaldato d'inverno. Grazie. Bene, bene, bene. Devo fare i complimenti anche a Helmut che fa questa musichetta di sottofondo spettacolare. Anche se non è un basso, eh? Anche se non è un basso. No, però c'ha queste advantage. Bene, a questo punto mi potresti ripetere il nome in inglese del gruppo? Si chiamano The Dead Ducks Trio. E è adesso? Difficilissimo da pronunciare. Dead Ducks Trio. Dead Ducks Trio. Esatto, perché poi c'è questo, cioè ci sono tutte queste D e queste. Vabbè. Dead Ducks Trio. Esatto. E come nascete? Perché siete voi tre? Perché siete questi strumenti? Perché siete questo repertorio? Però non hanno sentito niente. E la domanda è perché questo repertorio? Come nascete? Da dove venite? Perché voi tre? Siete? Perché questi strumenti? Dove andate? Cosa fate? Continuo a suonare. Tre fiorini. Parlo per conto di Helmut. Strofe, intanto Elena così me ne toglie, non mi dice più che sono io che faccio le cicale. No, nasce perché è la congiunzione astrale di tre mondi paralleli che però si incontrano e che in quel momento si rendono conto che hanno bisogno di un viagra mentale che è la musica, e da lì abbiamo trovato tutto ciò che ci serve. Dead Duck Trio Rewind è il prossimo passo e l'ultima fatica. Silhouette è il nostro, il nostro LP virtuale, non l'abbiamo mai fatto, però ci sarebbe piaciuto farlo e sarebbe stato composto da queste musiche. Ed è come se l'aveste fatto. No, quindi aspettami un attimo, quindi no... Fammi comunicare. Comunica, devi parlare più forte perché non ti sentono. E allora mi allontano e parlo più forte, ecco, va bene così. Così come proietto. Benissimo. No, ma quindi questi brani sono i brani che voi avreste voluto fare, ma intanto che non li avete fatti, li ha fatti già qualcuno prima di voi? Anche questo potrebbe, non ci avevo pensato, ma mi piace, perfetto. Ah. Va benissimo così. Ah, no, perché poi comunque morte, c'è da dire che tutte queste persone si conoscono grazie a Claudio Serapica, che era il fotografo che ha poi fondato questo studio fotografico. Ah, ma allora sono tutti un po' ex hippie. Certo, ma soprattutto lui aveva i capelli più così hippie lunghi di tutti che non che io non guarda che fa il sorriso sotto i baffi. No, no, invece non si sente niente, è un gran peccato che non si sente quanto parla il boss. Ah, giusto. Ha detto più che altro ha detto più. Invece Helmut aveva un afro. Helmut era black. Tu suonavi nei Big Bocciu, vero? Nei Big Bocciu, abbiamo fatto un concerto insieme. Nel Casalone Rock Club. Abbiamo fatto un concerto insieme nel 86. Ah, che bello. Che bello. Quanti anni avevi, Elena, nell'86? Ah, io avevo meno 3 anni. Meno 3? Io ne avevo 10. Tu ne avevi 10. Ero in quinta elementare. Io avevo 16, per cui eravamo quasi coetanei. No, ma siete. No, infatti, ma eravate dei fichi. Il livello mentale che avevamo poteva avvicinarsi molto. No, io ero una bambina di 10 anni, alle medie ero molto. Se la chiamavamo a fare la mostra sui babbeisti a 10 anni saresti stata perfetta. Ti traviamo. No, ero molto seria alle elementari. No, poi perché, sono peggiorata perché col tempo. Ecco, adesso non sei più seria. No, adesso che ci sei tu, Pasquini, infatti perché te ne vai, ti prego, rimani. Ma no, non lasciarmi alla mia serietà. Ma dai, pallone. Ma no, ma chiamerai. So. Chiamerò. Chiamerai, non lo so. Chiamerò. Va bene. Lolli viene quando no, lo chiami viene. Non viene. Mi ha già detto di no. Vabbè, certo, cioè se ci metto un'ora io da Vola Predosa arrivare qua alle 7. Io ci metto un'ora e 10. Cioè, no, Lolli ce ne mette 2. Va bene. Ciao Lolli, ti vogliamo tanto bene. Non vediamo l'ora che torni, intanto mandaci 2 minuti, puoi farne anche facciamo un doppio 2 minuti di Lolli, così intanto. 4 minuti di Lolli. Un po' di sì, ma distribuiti in 2 momenti, così io ho meno inceppi di palinsesto quando mai dovessero. Ma che inceppi di palinsesto? A me sembra che stia andando tutto. Ragazzi, cosa facciamo? Ci sono altre cose che dobbiamo dire? O tu hai qualcosa da dire? Assolutamente. Ciceone. Subito così. Lo vuoi dire in coro con la vocina di Google Translate? 3, 2, 1. Aspetta che tiro su. Ecco. 3, dacci tu il via. 3, 2, 1. Ciceone. Vedi? Insieme, insieme di nuovo. Ciceone. È che lui va quando gli pare. Cioè io schiaccio, ma questo parte. Tutti in coro, ragazzi. Ma loro non lo sentono. Seguite il labiale. Il labiale. Ciceone. Spettacolo di puntata. Sarà contento. Aspetta che vado a leggere cosa ci scrive Giffo, perché ci avrà scritto delle bastardate. Sì, ma qua i messaggini non si capisce. Allora ci vado più. a palpare. Ah, no, è arrivato un WhatsApp. Attenzione. Un gruppo di Froci dice: ma l'ospite è quella di quella. Ah, di quella. Sì, era venuto Giffo. Perfetto. Come poi quella? Dopo ci vado io a palpare il culo a Fedor a Coxo d'ora no! in poi. Cosa c'è? Raio no, ha scritto. Sì. Ciao, un beso, Raio. Ciao, Raio, mi mancherai tantissimo, soprattutto. Ma comunque. Vieni tu a co-condurre per un pochino. Esatto, dai, quattro puntate, dai. Vieni giovedì prossimo alle 7. Ti aspettiamo. Ti aspetta, Fedra. Io. Giovedì prossimo abbiamo la Valle delle Giraffe, la Valeria. Ah, ma dai. Grande. Sì, perché c'è tutto. Volevo partire dal mese prossimo con fare, sai, molto austro-ungarica e fiscale. Sarà un mese alla Simona volta. Mattioli, allora. Perché? Così. No, bene, mi fa piacere. Perché? È brava lei, no? Tu hai già fatto una mostra là una volta, tipo una vita fa. Ah, è vero, sì, sì. Vero? Sì, sì. Vedi cosa mi ricordo? Io non mi ricordo mai niente, mi ricordo queste cose qua. Sarà assurdo. Pasquini. Allora, 5 minuti alla fine della 114esima. Battezziamo la 114esima ah, sì? puntata, dai. Ok, allora. Sono Maggiore, sto ascoltando Coxo Spaziale. Cioè, questi me li devi dare tutti. Ci credi che Maggiore è uscito dallo stanzone? Sono nel Dropbox. Guarda, ah, abbiamo sì? anche. Ma come? Abbiamo anche questo. No, questa è quella di Raio. Raio! Ma questa. Raio! Mi avevo chiesto. Segnale! Ho confuso le risate. Sono di Raio. 19:54. Sei sicuro? Beh, il mio computer dice così. Quello ogni... lì che... Non si capisce ogni orologio. L'orologio lì dice... Va bene. Comunque siamo in diretta su Radio Città Fuggico e lo capite perché c'è la Teresa Ricci che... Allora, è ora di cominciare con i saluti. Quanto dura il brano nel 45 giri? Che il che dura poco, un minuto e mezzo. E allora minuti. Dobbiamo sbrigarci perché poi ci sono le pubblicità delle 8. Ma loro devono fare. E poi loro devono pezzo. Sbaraccare che arrivano. Dai, paura subito. Di palcoscenico. E partite, vai. E poi intanto che voi The Sunny Side of the Street intanto. Ciao. Ciao. È stato bello, Fedra. Sì. Salutami la Clemente. Ciao Pasqua, ciao Elena Aversky, ciao Stefano Stagni, ciao Luca Hepwood Ortensi e ciao Gianni Silvestri. Gianni Silvestri, ciao. È il pilastro dei da Fedra Siboscaro. Da Fedra Siboscaro. Ciao Stefano W. Pasquini. Ciao Elena Aversky. Ciao Stefano Stagni. Vuoi leggere gli altri nomi? Ciao. Ciao ciao! Questo era Stagni. Questo era Stagni. Fagli fare. No, Elisa sta facendo la sola, impegnatissimo, non può dirmi ciao. Però posso passare il microfono a Gianni che dice. Ciao! Questo era Silvestri. Hai sentito? Che voce da visto gatto. Miau. Ah no? No, e lui continua a essere troppo impegnato. Ci dirà ciao uno di questi giorni. Avete ascoltato la 114esima puntata? La 114esima puntata. Ti posso mandare degli MP3 a cazzo? Ma mandami tutto quello che vuoi, ma lo sai che io ti telefonerò. Ah, no, ma il telefono è un orario un po' sfigato. Neanche Skype? No, il telefono sì. E Skype? Skype chissà, boh, dipende. Mamma. Può darsi. Mamma. Skype sì, Skype no, non lo so. Ma tanto Skype tu non ci riuscirai. E poi mai mi devi mandare i co-conduttori. I co-conduttori te li mando. Ma cioè, no, poi ti mando degli ospiti, ti mando, che ne so. Tu, cioè, continuiamo. Consello. Sì. Sì, sì. Un po' di così, certo. Sarò lontano ma vicino. Fino a qui non tornerai. Qui, fino a che non di là tornerò dal vetro. Esatto, fino a che. Lontano appunto dalle mie cocce, chiappi. Cocche, chiappi. Beh. Tu e Fuga per Art, faccia al muro! Ma no, io con te sono sempre stato. No, lì, anche perché, scavoli, sono finita subito dietro il vetro. Appunto. hai fatto bene. No, no, ma in realtà è tutto fumo e niente arrosto, fortunatamente, altrimenti si troverebbe già disarticolato alla, cioè, a fuga di schiaffoni. Cioè, ecco, va bene. Bene. Allora, vado con l'LP? Vai con l'LP, cioè in realtà non è un LP, è un 45 giri che però è a 33 giri. Yeah, bravi, grande Dead Duck Trio. Difficilissimo. Hai capito cosa devi alzare? Ah, non hai acceso quello dietro. Sì, sì, schiaccia. Così. No, aspetta che arrivo. Eccoci. Era lei? Era lei. Bene. Ciao. Senti che gran pezzo. 114esima puntata del Cozzo, una delle ultime col W. Ciao, Matti, un bacione. Anche il bacione. Say it wild, ragamuffin style, a fitty discipline child.